peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salt Peanuts. Oggi ascoltiamo alcune pubblicazioni recenti o meno di pianoforte, dedicato interamente al pianoforte oggi. Non che manchi l'imbarazzo della scelta, insomma, sono sicuramente molti, uno strumento decisamente molto utilizzato, in maniera spesso non troppo originale, specialmente negli ultimi decenni ormai. È difficile suonare un pianoforte, uno strumento così costrittivo da un punto di vista armonico, da poter inventare continuamente stili diversi. Gli esempi sono non soltanto di pianoforte, ma anche poi di altro, cominciando con Dave Burrell, uno dei pionieri dell'avanguardia di questo strumento. Nasce con il Free alla metà degli anni 60, è stato uno dei protagonisti di quella stagione, accompagnatore frequente di Archie Shepp, un po' in tutte le sue incisioni, ma anche di tutto quell'entourage di musicisti che ruotavano intorno a Shepp, come Graham Moncur, come anche Alan Silva o Clifford Thornton, musicisti che si muovevano nell'etichetta discografica ESP, che rappresentava un po' l'avanguardia più radicale, e poi successivamente, subito dopo, la Big Actual, che era un'etichetta francese che testimoniava attraverso varie tournée dei musicisti americani, testimoniava appunto quanto avveniva nell'ambito della musica d'avanguardia, del jazz. Le caratteristiche di Burrell erano però particolari e sono rimaste particolari, nel senso che è un pianista radicato molto nella tradizione del pianoforte, anzi proprio nelle radici dello strumento da un punto di vista jazzistico. Si potrebbe quasi definire una sorta di continuatore di quello che può essere stato Herbie Nichols, o comunque un utilizzo spesso che gioca sia nell'ambito dell'improvvisazione sia anche in quello della struttura di stride piano e di stili da anni 20 anni 30. Ha continuato la sua attività, che è stata molto intensa durante il decennio dal 65 al 75 più o meno. Poi si è affievolita, ma non ha mai interrotto la sua attività, e accompagnando adesso negli ultimi anni William Parker oppure David Murray. Recentemente un disco dell'anno scorso, quindi del quale non mi ero accorto, ma che invece vale la pena di essere ascoltato, è un incontro, una collaborazione con una sassofonista, una donna tedesca, berlinese. Si tratta di Silke Eberhard, strumento contralto, decisamente brava, un'allieva di Dave Liebman, ma poi suona un po' con tutti i musicisti dell'avanguardia tedesca e non solo, anche negli Stati Uniti, in Canada. Collabora con molti musicisti, sicuramente è una strumentista impeccabile da un punto di vista tecnico, e anche da un punto di vista espressivo riesce a proporre cose interessanti. Ascolteremo un paio di brani che sono composti da Burrell, presi appunto da questo disco che si intitola Darlingtonia. Thank you. Thank you. Queste due composizioni sono un po', rappresentano abbastanza quello che è il clima di questo duo, di questo incontro, di Silke Eberhard al contralto e Dave Barrell al pianoforte. Esprimono entrambi la propria personalità. Barrell con questi punti di incontro che stanno su note sospese, che ricordano appunto le esperienze che provengono da Thelonious Monk, ma poi si concludono anche con del Boogie o con altre suggestioni legate alla musica più di consumo, ma mai compiuta, mai banalizzata. E la Silke Eberhard è sicuramente una musicista che deve molto e che omaggia in diverse occasioni, ma peraltro non lo nega neanche, la provenienza, la propria predilezione per Eric Dolphy e per quel mondo espressivo, di spigolosità comunque legate alla tonalità. E un altro incontro, questo ricordo, questo disco intitolato Darlingtonia, uscito l'anno scorso, e un incontro che avviene decisamente più di frequente, due musicisti, violino e pianoforte. Si tratta di Mark Feldman al violino e Sylvie Courvoisier al pianoforte. È stato un incontro, peraltro, che è un sodalizio che trova poi conferma anche nella vita, ma è particolarmente felice questo incontro da un punto di vista musicale, è chiaro che di questo parliamo. La capacità di integrazione, di dialogo e di sostegno reciproco che riescono ad esprimere questi due musicisti in duo, le collaborazioni ormai sono frequenti, hanno anche un quartetto, ma specialmente in duo riescono a raggiungere, a mio avviso, delle vette che nessun'altra formazione di questo tipo riesce ad esprimere, anche non solo per la musica che riesce a declinare qualunque tipo di cultura del Novecento, che va naturalmente, passa attraverso l'impressionismo francese, ma questo specialmente nel pianoforte della Courvoisier, ma anche in tutta quella che è stata la storia dell'avanguardia. Quindi credo che un violino, il suono del violino di Mark Feldman non ha paragoni nell'ambito del violino jazz, perlomeno per quanto riguarda dagli anni 70 in poi. È un suono classico, un suono che prende la propria sonorità, i propri armonici dal mondo più vasto della composizione classica. Si pone anche in una terra di confine con la musica contemporanea. E il risultato, appunto, anche in questo caso, un disco registrato recentemente per l'etichetta Intact, registrato dal vivo al Live at Theatre V di Lausanne, quindi registrato a Lausanne, e il risultato è straordinario, ancora una volta straordinario. Ascoltiamo un paio di momenti, un paio di composizioni che testimoniano appunto la qualità di questo incontro. Thank you. Questo era il duo di Sylvie Courvoisier al pianoforte e Marc Feldman al violino, un duo di notevole valore musicale, e in un ultimo lavoro uscito recentemente, registrato dal vivo a Losanna. Quindi è una carriera questa anche di Marc Feldman, che è riuscita a mantenere uno spirito di ricerca nato artisticamente intorno alla fine degli anni Ottanta, insieme ad altri musicisti, penso per esempio dei Douglas o altri che hanno poi trovato una loro collocazione all'interno dell'etichetta Zadig con John Zorn, però diversi di questi poi hanno preso, penso appunto Dave Douglas per esempio, ha scelto più una a mio avviso una deriva legata a un mainstream senza continuare una ricerca di tipo formale, cosa che non ha mai invece abbandonato Fern, se non in poche occasioni, per esempio nelle collaborazioni nell'etichetta ECM di Manfred Eicher. E appunto di Manfred Eicher, della sua etichetta, parliamo nell'ultimo lavoro. Si tratta, l'ultima cosa che ascolteremo, una ristampa di Keith Jarrett, una ristampa di un cofanetto uscito nell'82, un cofanetto di 3 dischi. È curioso il fatto che non sia mai stata ristampata questo cofanetto in piano solo, perché tutto sommato era l'unico lavoro anche di una certa rilevanza, che ha avuto anche una certa rilevanza, che non era ristampato, che si trovava solo in vinile. La vicenda del piano solo per Jarrett è abbastanza particolare, infatti la collaborazione con Manfred Eicher inizia proprio in una situazione di piano solo. Jarrett, che circolava per l'Europa con il gruppo di Miles Davis, cercava di proporsi sia con il suo trio ma anche di proporre i suoi lavori autonomamente. Era sicuramente stanco della collaborazione con l'ingombrante Miles Davis e voleva provare ad esprimersi per conto suo a Bologna, quindi non è molto lontano da noi, a Bologna, appunto a un festival del jazz dove lui suonò. Era presente anche Manfred Eicher, che lo conobbe e ebbe modo di ascoltare anche un nastro che Jarrett aveva di piano solo. In questo modo ebbe vita il primo lavoro straordinario, decisamente un capolavoro per la storia del pianoforte jazz, che era Facing You. Poi a questo a questa formula sono successi altri episodi. Un cofanetto che uscì, che registrava Brema e Losanna nel 72, poi dopo nel 75 l'esplosione di Colon Concert, che è stato probabilmente, adesso non sono aggiornato sui dati recenti, ma credo che si possa definire il disco di jazz più venduto nella storia del jazz. E questo è stato da un lato un grande successo, un grande successo di Manfred Eicher, che ha potuto far nascere e consolidare la sua etichetta discografica e tuttora vive sui proventi che derivano da questo lavoro, e anche per Jarrett, che l'ha consacrato come un gigante, indubbiamente, meritatamente. ma è stato anche quello che ha segnato una sua, come dire, un percorso di megalomania assoluta che l'ha portato pochi anni dopo intanto ad avere un potere su Manfred Eicher per produrre qualunque cosa che lui proponesse, per esempio un cofanetto di 10 dischi di piano solo registrati in Giappone. Ecco, questi concerti, l'abbiamo ascoltato anche a Bologna in più occasioni, mi sembra, in quegli anni, era semplicemente, Jarrett si sedeva al pianoforte e improvvisava per un'ora e mezza, quello che voleva. E insomma, questa era una situazione veramente incredibile perché la sua capacità di concentrazione e di invenzione di melodie e di situazioni sempre diverse era veramente straordinaria. Naturalmente questa grande creatività comporta anche un logoramento. Questo cofanetto che uscì nell'82 rappresenta un po' una conclusione di questo percorso, di queste scorribande sul pianoforte che duravano quanto lui voleva. Qui in questi tre dischi in diversi momenti si sente una certa stanchezza creativa, però questo non toglie che rimangano alcuni momenti magici. Successivamente poi Jarrett ripiegherà intanto anche con problemi di salute legati allo stress e sceglierà la formula del trio, il piano trio con recuperi di standard, improvvisazioni sugli standard. Ma queste galoppate di pianoforte, di piano solo, costituiscono un punto centrale della carriera di Jarrett. Ascoltiamo da questi due concerti che sono stati registrati a 5 giorni uno dall'altro, nell'81, nel maggio, alla fine di maggio, all'inizio di giugno, a Bregenz e a Munchen. E furono registrati, ascoltiamo un frammento, una parte del concerto di Bregenz e poi successivamente una song, una canzone straordinaria a mio avviso. Diciamo che il concerto si strutturava con una grande improvvisazione, poi dopo il bis veniva spesso, lui creava una song un po' gospel, un po' folk, con questa sua capacità, come dire, accattivante, straordinaria. Ascoltiamo questi due momenti, in successione che testimoniano la straordinaria qualità di Jarrett in quegli anni. Thank you. Questo era Keith Jarrett in piano solo, un concerto registrato a Bregenz e a Monaco, ripubblicato dalle CM, disco registrato nell'81, ripubblicato appunto recentemente per le CM, un cofanetto di tre dischi. E questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che tutte le indicazioni sulla trasmissione e anche l'intera trasmissione la potete riascoltare nel nostro sito radiocittafujiko.it nella sezione playlist. Salve a tutti e alla prossima. Sal Peanuts. Jazz on Megahertz. Sal Peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.